Nell'anno 172 il re Demetrio radunò le sue milizie e partì per la Media per raccogliere rinforzi e combattere Trifone. Ma Arsace, re della Persia e della Media, appena seppe che Demetrio era entrato nel suo territorio, mandò uno dei suoi generali per catturarlo vivo. Costui venne, batté l'esercito di Demetrio, lo catturò e lo condusse da Arsace, e questi lo mise in carcere. Ebbe pace la terra di Giuda per tutta la vita di Simone. Egli cercò il bene della sua gente, e ad essi fu gradito il suo potere e la sua gloria per tutti i suoi giorni. In aggiunta a tutte le sue glorie, egli prese Giaffa per farne un porto e aprì un accesso alle isole del mare. Ampliò i confini del suo popolo e riconquistò la regione. Raccolse una turba di prigionieri e si impadronì di Gezer, di Bet-Zur e dell'Acra. Spazzò via da essa le immondezze e nessuno gli si oppose. In pace si diedero a coltivare la loro terra. Il suolo dava i suoi prodotti e gli alberi della campagna i loro frutti. I vecchi sedevano nelle piazze, tutti si interessavano al bene. I giovani indossavano splendide vesti e armature di guerra. Alla città fornive tovaglie e li munì con mezzi di difesa. Così divenne celebre il suo nome e la sua gloria fino all'estremità della terra. Fece regnare nel suo paese la pace e Israele gioì di grande letizia. Ognuno sedeva sotto la sua vite e sotto il suo fico e nessuno incuteva loro timore. Scomparve dal paese chi li avversava. I re andarono in rovina in quei giorni. Confortò tutti i derelitti del suo popolo, cercò la legge ed eliminò ogni iniquo e maligno. Diede splendore al tempio e lo rifornì di tutti gli arredi. Si sparse fino a Roma e a Sparta la notizia che era morto Gionata e se ne rattristarono molto. Tuttavia, quando seppero che Simone, suo fratello, era diventato sommo sacerdote al suo posto e continuava a mantenere il potere sulla regione e sulle città, scrissero a lui su tavolette di bronzo per rinnovare con lui l'amicizia e l'alleanza che aveva concluso con Giuda e Gionata, suoi fratelli. I messaggi furono letti davanti all'adunanza in Gerusalemme. Questa è la copia della lettera che inviarono gli Spartani. Le autorità e la cittadinanza degli Spartani a Simone sommo sacerdote, agli anziani, ai sacerdoti e al resto del popolo giudaico, loro fratelli, salute. I messaggeri inviati al nostro popolo ci hanno riferito intorno alla vostra gloria e al vostro onore e noi ci siamo rallegrati per il loro arrivo. Abbiamo registrato le loro dichiarazioni negli atti pubblici, in questi termini. Numenio, figlio di Antiochio, e Antipatro, figlio di Giasone, messaggeri dei Giudei, sono giunti presso di noi per rinnovare l'amicizia con noi. È piaciuto al popolo di ricevere questi uomini con ogni onore ed inserire il testo del loro discorso nei registri a disposizione del pubblico, perché il popolo degli Spartani ne mantenga il ricordo. Successivamente Simone mandò a Roma Numenio con un grande scudo d'oro del peso di 1.000 mine per concludere l'alleanza con loro. Quando il popolo seppe queste cose, disse: «Quale contraccambio daremo a Simone e ai suoi figli? Egli infatti e i suoi fratelli e la casa di suo padre sono stati salvi e hanno scacciato da sé con le armi i nemici di Israele e hanno assicurato la libertà». Poi fecero un'iscrizione su tavole di bronzo che furono poste su colonne sul monte Sion. Questo è il testo dell'iscrizione. Il 18 di Elul dell'anno 172, che è il terzo anno di Simone, sommo sacerdote, in Asaramel, nella grande assemblea dei sacerdoti e del popolo, dei capi della nazione, degli anziani della regione, ci è stato reso noto. poiché più volte erano sorte guerre nel paese, Simone, figlio di Mattatia, sacerdote della stirpe di Iorab, e i suoi fratelli si gettarono nella mischia e si opposero agli avversari del loro popolo, perché restassero incolumi il santuario e la legge, e arrecarono gloria grande al loro popolo. Jonata riunì la sua nazione e ne divenne il sommo sacerdote. Poi andò a raggiungere i suoi antenati. I loro nemici vollero invadere il loro paese e stendere la mano contro il santuario. Simone allora si oppose e si batté per il suo popolo e spese molto del suo per dotare di armi le milizie della sua nazione e assegnare loro un salario. Inoltre fortificò le città della Giudea e di Bet-Zur, nel territorio della Giudea, dove prima c'era la roccaforte dei nemici, e vi pose un presidio di soldati giudei. Fortificò Giaffa, situata sul mare, e Gezer presso i confini di Asdod, nelle quali prima risiedevano i nemici, e vi impiantò i giudei, e provvide in esse quando era necessario al loro sostentamento. Il popolo ammirò la fede di Simone e la gloria che egli si proponeva di procurare al suo popolo. Lo costituirono loro capo e sommo sacerdote per queste sue imprese e per la giustizia e la fede che egli aveva conservate al suo popolo e perché aveva cercato con ogni mezzo di elevare la sua gente. Nei suoi giorni si riuscì, felicemente per mezzo suo, a scacciare dal loro paese i pagani e quelli che erano nella città di Davide e in Gerusalemme, che si erano edificati l'acra e ne uscivano profanando i dintorni del santuario e recando offesa grande alla sua mondezza. Egli si insediò soldati giudei, la fortificò per la mondezza della regione e della città ed elevò le mura di Gerusalemme. Il re Demetrio quindi gli confermò il sommo sacerdozio, lo ascrisse tra i suoi amici e gli conferì grandi onori. Seppe infatti che i giudei erano considerati amici, alleati e fratelli da parte dei romani e che questi erano andati incontro ai messaggeri di Simone con segni di onore, che i giudei e i sacerdoti avevano approvato che Simone fosse sempre loro condottiero e sommo sacerdote finché sorgesse un profeta fedele, che fosse loro comandante militare e avesse cura del santuario, e fossero nominati da lui i sovrintendenti ai loro lavori, al paese, agli armamenti e alle fortezze, che prendendosi cura del santuario fosse da tutti obbedito, che scrissero nel suo nome tutti i contratti del paese e vestisse di porpora e ornamenti di oro. Ne doveva essere lecito a nessuno del popolo né sacerdoti respingere alcuno di questi diritti o disobbedire ai suoi ordini o convocare riunioni senza suo consenso e vestire di porpora e ornarsi della fibbia aurea. Chiunque agisse contro questi decreti o ne respingesse alcuno fosse ritenuto colpevole. Piacque a tutto il popolo sancire che Simone si comportasse secondo questi decreti. Simone da parte sua accettò e gradì di esercitare il sommo sacerdozio, di essere anche stratega ed etnarca dei giudei e dei sacerdoti e capo di tutti. Disposero che questa iscrizione fosse riportata su tavole di bronzo da collocarsi nel recinto del santuario in luogo visibile e che se ne depositasse copia nel tesoro perché fosse a disposizione di Simone e dei suoi figli.